La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 28 novembre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E beh, possiamo dirlo, oramai ci siamo, fra pochi anni, dopo tante polemiche, dopo tanto dibattito, verranno installate di nuovo qui in Italia delle centrali nucleari, quelle centrali nucleari che avevamo rifiutato nel 1987 con il nostro referendum. E quindi per parlare delle centrali nucleari che verranno installate qui in Italia, quindi espressamente di EPR, ne parleremo con Marco Sumini, professore di fisica dei reattori nucleari presso l'Università di Bologna. Buongiorno professor Sumini. Buongiorno. Professor Sumini, noi all'inizio abbiamo 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione e quindi io in 100 parole le volevo chiedere che cosa significa la parola EPR, quindi European Pressurized Reactor. Dunque, EPR è una sigla definita da così da Areva, che è il costruttore, il progettista di questa classe di reattori e probabilmente in questo momento il maggior venditore di reattori nucleari al mondo, come European Pressurized Reactor, cioè reattore nucleare pressurizzato di concezione europea, che però internazionalmente viene anche tradotto come reattore nucleare di potenza evolutivo, Evolutionary Power Reactor. È una sigla che ormai indica una classe di reattori nucleari cosiddette di generazione 3+, e sono i reattori nucleari che attualmente si stanno costruendo a Olkiluoto in Finlandia, a Flamanville in Francia e sono in costruzione anche in Cina. Perfetto professore, come abbiamo capito di cose da dire all'interno di questa trasmissione saranno veramente tante. Descrivo un attimo come andrà questa trasmissione. Nella prima parte parleremo fondamentalmente della storia, della composizione e dell'evoluzione dei vari reattori e della loro evoluzione tecnologica. E poi nella seconda parte, quindi dopo il secondo pezzo musicale, parleremo fondamentalmente di EPR, quindi dei reattori pressurizzati che saranno installati anche sul nostro territorio. Quindi in questo momento ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale e poi torniamo in studio. So long ago, so long. This is not where I belong. So I wait for the shallow itch to pass, and I wait, yeah, I wait. But it's time for me to leave this all behind. I don't regret a single thing. I couldn't say it didn't feel alright. But I don't wanna stay and I don't wanna fight all alone. Foolish. voyeurish appetite. So I wait for the shallow itch to pass, and I wait, yeah, I wait. Yours and mine. Whoa, oh, I don't know. I was ever hoping I would find, but it's time for me to leave this all behind. I don't have the heart to give away to you again. I don't have the stomach for it. No one ever wins. We had our fun, but I have sung this song to you. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, in questa puntata in cui stiamo provando a parlare di nucleare. Lo sapete, non è la prima volta che lo facciamo, abbiamo analizzato i costi, abbiamo analizzato i problemi come le scorie nucleari, ma questa volta ci addentriamo più dal punto di vista tecnico e ne stiamo parlando proprio col professor Marco Sumini, professore di fisica dei reattori nucleari. Ci addentriamo dal punto di vista tecnico, come detto, e quindi cerchiamo di fare una storia dei reattori nucleari, quindi del cuore del sistema nucleare, dove effettivamente viene estratta direttamente l'energia dall'atomo. Quando possiamo dire, professor Sumini, che abbiamo avuto l'estrazione dell'energia atomica? Beh, diciamo che la scoperta della fissione come fenomeno risale all'inizio degli anni 30. In Italia abbiamo avuto la famosa scuola di Fermi, i ragazzi di via Panisperna che facevano esperimenti sulla produzione di neutroni per effetto di fissione e come utilizzare questi neutroni per realizzare la cosiddetta reazione a catena. Ora, lo sfruttamento a fini energetici della fissione nucleare è un'idea che si può far risalire agli anni 30. Agli anni 30 viene scoperto il fenomeno della fissione, si ipotizza la possibilità di una reazione a catena autosostenentesi e vengono condotti esperimenti un po' in tutto il mondo. In Italia in particolare abbiamo gli esperimenti condotti dal gruppo di ricerca di Enrico Fermi. Poi sappiamo che Enrico Fermi si trasferirà negli Stati Uniti per via delle leggi razziali e delle offerte, anche le proposte di ricerca che gli vengono fatte dal governo americano, e riuscirà a realizzare il primo reattore nucleare nel 1942 a Chicago e darà via al cosiddetto progetto Manhattan, che porterà alla realizzazione della bomba atomica e quindi tutta una nuova classe di armi nucleari. Possiamo anche dire però che i progetti militari non sono peraltro gli unici progetti che porta avanti Fermi. Parallelamente sviluppa l'idea di utilizzare, oltre che per scopi bellici, questa energia che si può ricavare dal nucleo a fini pacifici. E questo porta a sviluppare diverse filiere di reattori nucleari, identificabili in sostanza per via del materiale che viene utilizzato per rallentare i neutroni, per renderli disponibili per le reazioni a catena, e del materiale che viene utilizzato per raffreddare, quindi convogliare l'energia per poi produrre tramite turbine energia elettrica, perché poi alla fine anche questa forma nobilissima di energia che si ottiene frammentando i nuclei pesanti che troviamo disponibili in natura, alla fine si deve tradurre in sostanza in un incremento di temperatura di un fluido che produce poi vapore ad altissima pressione che viene inviato in turbina e quindi produrre energia elettrica che viene immessa in rete. Professore, mi permetto di interromperla per chiederle una cosa fondamentale. Stiamo parlando un pochino dell'evoluzione, quindi di come si sono evoluti i reattori dagli anni 40 fino ad oggi. E quindi cosa c'è di differente oggi rispetto a ieri nei noccioli dei reattori? Quindi cosa c'è di differente nei noccioli, per esempio, di EPR rispetto al nocciolo del Chicago Pile, che è il primo reattore creato nel 42 da Fermi? Beh, quel reattore di Fermi era soltanto un dimostratore della possibilità di intrattenere una popolazione neutronica stazionaria all'interno di un mezzo, cioè sostanzialmente prevedeva del materiale fissile, prevedeva un moderatore in grado quindi di rallentare i neutroni prodotti nel processo di fissione fino al punto da renderli utili, fosse facile per i neutroni indurre altre fissioni e nient'altro, e nient'altro. Invece i reattori di potenza, quelli che servono a produrre energia elettrica, prevedono appunto un fluido che in sostanza, l'acqua in buona sostanza, che partecipa al processo di moderazione, raffreddamento in misura diversa, di funzione di diverse tipologie di reattori o anche gas talvolta, per convogliare l'energia verso una trasformazione che porta a produrre energia elettrica. Beh, va anche detto che sono passati più di 50 anni da allora e che quindi una grossa evoluzione tecnologica sicuramente c'è stata, e sicuramente c'è stato anche un avanzamento della struttura dei reattori. Si è provato di tutto, nel senso che si è provato come moderatore la grafite, si è provato l'acqua pesante, si è provata l'acqua leggera, sono provati i metalli liquidi, sono state fatte innumerevoli prove dal punto di vista dell'efficienza per facilitare il processo di moderazione, perdere durante questo processo di moderazione dei neutroni il minor numero di possibile di particelle per averne a sufficienza per mantenere la reazione a catena, e direi che questo processo ha portato a un'evoluzione praticamente costante che attualmente vede nei reattori cosiddetta generazione 3+ le macchine commerciali probabilmente più efficienti che siano mai state progettate e attualmente sono attualmente in costruzione. Professor Sumini, ci lasciamo per un attimo con un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continuiamo la nostra discussione. Thank you. bentornati in studio, cari radioascoltatori, in questa puntata in cui stiamo parlando di energia nucleare, stiamo parlando della tecnica dell'energia nucleare, quindi dei reattori nucleari, e ne stiamo parlando col professor Marco Sumini, professore di fisica dei reattori nucleari presso l'Università di Bologna. Professore, prima di lasciarci, lei aveva citato la parola fondamentale, cioè il reattore, posto dove fisicamente avvengono le reazioni nucleari, quindi quelle reazioni a catena che poi riscaldano il fluido e che poi trasportano l'energia termica e poi attraverso vari sistemi viene trasformata in energia elettrica. Ma come si fa a generare una reazione a catena all'interno del nocciolo? Quindi quali sono gli elementi presenti nel nocciolo e come fanno ad avvenire le reazioni a catena? Ecco, allora, il combustibile di un reattore nucleare è appunto costituito da una miscela, sostanzialmente uranio-235, uranio-238. L'uranio-235 è un isotopo dell'uranio-238 che è presente in natura in una percentuale circa dello 0,7%. Questa percentuale, così è la percentuale che definisce le caratteristiche dell'uranio naturale, è ovviamente così piccola che i neutroni prodotti in un processo di fissione con una composizione isotopica di questo tipo sono troppo pochi per poter alimentare una reazione a catena. I reattori moderni prevedono un arricchimento in termini di uranio-235 del combustibile che viene inserito nel nocciolo, arricchimenti che possono variare, diciamo, attorno al 5%, in quanto, diciamo, la mappa di arricchimenti all'interno del core del reattore è dettata dalla necessità di rendere il più possibile omogenea, di poter controllare nel modo più efficace lo sfruttamento degli isotopi presenti nel combustibile, 235 presenti nel combustibile, e quindi rendere l'utilizzo di questo del materiale contenuto all'interno del core il più efficace possibile. Ma l'arricchimento dell'uranio viene fatto esternamente al reattore oppure viene fatto direttamente in loco? Diciamo che il processo di arricchimento avviene in siti totalmente separati dai siti di produzione di energia, anche se sono processi che richiedono moltissima energia, tant'è vero che in Francia il sito di Rodif, che era quello che produceva l'uranio arricchito, aveva bisogno di reattori nucleari per funzionare, proprio perché è un processo che mangia molta energia. Bene professore, a questo punto abbiamo parlato un pochino di come è fatto un reattore nucleare, come è fatta una centrale nucleare, e quindi a questo punto entriamo all'interno dell'argomento e quindi cerchiamo di parlare di EPR, quindi gli European Pressurized Reactor. Diciamo un po' che gli EPR sono una specie di evoluzione dei vecchi PWR, che erano i reattori ad acqua pressurizzata. Diciamo anche che ce ne sono due in costruzione, che sono uno a Flamanville e l'altro a Occhiuto, ma in realtà come è composto EPR? Quindi in che modo EPR è un'evoluzione dei vecchi reattori nucleari e in che modo è migliore rispetto agli altri? Beh, il principio di funzionamento poi è sempre lo stesso, nel senso che essendo un reattore ad acqua pressurizzata è un reattore concettualmente molto, molto compatto. Come dicevo, utilizza principalmente ossido d'uranio arricchito attorno al 5% di uranio-235, ma ha anche la possibilità di consentire, di allocare all'interno del core anche elementi ad ossidi misti, cioè la neutronica del sistema, il progetto del core prevede anche la possibilità di bruciare all'interno di questo reattore ossidi misti. Ossidi misti è un termine con cui si indicano attualmente elementi di combustibile in cui compaiono uranio e plutonio. Non dobbiamo dimenticare che il plutonio è uno dei prodotti secondari dei reattori nucleari, e la filosofia attuale è quello di bruciarlo nei reattori nucleari, non considerarlo un rifiuto, perché effettivamente è una sorgente di energia e si produce da trasmutazioni nucleari che avvengono all'interno dei reattori nucleari, quindi è recuperabile degli elementi di combustibile che vengono estratti dai reattori nucleari, e quindi il suo destino è proprio quello di produrre ulteriore energia venendo reimmesso all'interno del core del nocciolo di un reattore nucleare. Ovviamente avendo delle caratteristiche diverse dall'uranio 235, l'intero progetto deve tener conto delle caratteristiche diverse di questi ossidi misti, soprattutto in termini di capacità di generare potenza all'interno del sistema per evitare squilibri all'interno di distribuzione spaziale di generazione di potenza all'interno del reattore. E questo è un valore aggiunto per, diciamo, il reattore della classe PR, perché è un modo con cui si può aiutare a risolvere il problema che viene spesso dibattuto delle scorie dei reattori nucleari a lunghissima vita. Cioè, alla fine si scopre che le scorie dei reattori nucleari a lunghissima vita, cioè gli attinidi, in realtà possono benissimo diventare una risorsa energetica essi stessi, perché possono venire bruciati, sia pure con gradualità, con opportuna capacità di diluizione all'interno di un reattore nucleare. Quindi questi diventano una risorsa, non più un onere. Ciò che rimane sono nuclei instabili che hanno tempi di decadimento dell'ordine delle centinaia di anni, e quindi non dico che sono equivalenti dal punto di vista dell'onere di smaltimento o di digestione di un sistema simile a quello della plastica. La plastica richiede centinaia di anni per poter essere digerita dal sistema. Questi nuclei instabili che hanno tempi di decadimento dell'ordine delle centinaia di anni, tutto sommato, sono gestibili anche in un processo di confinamento e gestione dei rifiuti dal punto di vista globale. Professor Somini, quelli che lei definiva gli ossidi misti altro non sono che quelli che vengono conosciuti comunemente come i MOX, quindi Mixed Oxid Fuel. Sì, esattamente, esattamente. Perfetto. Allora, a questo punto, professor Somini, un'altra domanda. Già nel nome si legge, quindi European Pressurized Reactor, quindi reattore ad acqua pressurizzata. Perché c'è la necessità di avere l'acqua ad alte pressioni e non acqua in pressioni normali? Cosa c'è di differente? Le alte pressioni in sostanza consentono di avere dei noccioli particolarmente compatti. Sono ad acqua pressurizzata, per esempio, tutti i reattori nucleari che muovono sommergibili e portaerei, navi militari in giro per il mondo, proprio perché, essendo di piccole dimensioni, sono facilmente installabili all'interno di un'unità navale, quindi sono particolarmente compatti. Un grado maggiore di compattezza lo fornirebbero i cosiddetti reattori veloci raffreddati a metallo liquido. Per esempio, è una via tentata dai sovietici sulle loro unità militari, proprio sempre per ragioni di compattezza e densità di potenza. Diciamo che il discorso dei reattori cosiddetti veloci come il Superphénix è un discorso che è partito in Europa, appunto, con la realizzazione di una serie di reattori Mazurka, Phénix, Superphénix. Soprattutto in Francia Superphénix era un'impresa che vedeva tre paesi coinvolti: la Francia, la Germania, la stessa Italia, e è stato chiuso per ragioni essenzialmente politiche, non tecniche. Però attualmente i reattori veloci sono fra le opzioni per i reattori di quarta generazione. Ovviamente i francesi, che hanno un enorme bagaglio sull'utilizzo del sodio nei reattori veloci, hanno una loro versione di reattore veloce di quarta generazione allo studio, che appunto utilizza il sodio. Cioè, non si chiede ai reattori normali di cambiare il loro funzionamento, ma verranno affiancati in parte da questi reattori 3+ e fra un po' da alcuni reattori di quarta generazione, che saranno in grado di chiudere il ciclo e quindi di sfruttare al meglio le potenzialità energetiche degli attini, di questi nuclei così pesanti, così instabili e utilizzabili in questo modo per produrre energia. Quello che dobbiamo pensare quando pensiamo a questi nuclei particolarmente pesanti è che sono nuclei che, in un certo senso, ci troviamo a disposizione sul nostro pianeta, in un certo senso per via di un universo precedente, nel senso che nuclei così pesanti possono essere distribuiti al dettaglio solo da stelle molto massicce in fase di collassamento. Quindi le stelle massicce muoiono, esplodono, distribuiscono al dettaglio questi nuclei molto pesanti. I nuclei molto pesanti poi ce li ritroviamo, dei pianeti. Se vogliamo, anche gli attini sono una forma di energia solare, però con un tempo, con un tempo di ritardo enormemente lungo, dovuto al fatto che sono un'eredità di stelle defunte miliardi di anni fa. Professore, le voglio fare due domande in una, due domande che in realtà includono dei numeri da dire ai nostri radioascoltatori. Prima di tutto, a che temperature arriva il fluido refrigerante che passa attraverso il nocciolo? E la seconda domanda, che quantità di scoria viene prodotta da EPR rispetto al passato? È minore o superiore al passato? Un po' ci ha già risposto dicendo che parte delle scorie vengono riutilizzate come MOX, quindi come Mixed Oxy Fuel, che sono poi i carburanti che uniscono sia il nuovo carburante sia gli attinidi. La temperatura dell'acqua mediamente attorno ai 300 gradi, con un delta T di passaggio nel nocciolo di circa una trentina di gradi. In questo modo nel nocciolo vengono generati 4500 megawatt termici, che poi vanno a trasformarsi ovviamente con un rendimento di circa 30-35% in megawatt elettrici. Il discorso sulle scorie è un po', come dire, in evoluzione, nel senso che il combustibile all'interno del core verrà gestito con un processo di movimentazione e sostituzione in modo da ottimizzarne il bruciamento. Dopodiché questo combustibile dovrà essere auspicabilmente trattato per estrarne gli attinidi, eventualmente generare ossidi misti, e questi ossidi misti potranno rientrare all'interno del core di questo di un reattore PR o successivamente di un reattore di quarta generazione, ugualmente per produrre energia. Alla fine quello che diciamo rimane, come dicevamo prima, nel processo sono soltanto i prodotti di fissione. Prodotti di fissione quindi che dovranno essere immobilizzati per un periodo di tempo non dell'ordine dei millenni, ma dell'ordine delle centinaia di anni, e i cui volumi diciamo sono collegati al volume del nocciolo del reattore nucleare. Qui stiamo parlando di un cilindro di alcuni metri, di altezza e alcuni metri di diametro, quindi stiamo parlando tutto sommato di poche tonnellate, poche decine di tonnellate all'anno, come cifra ad indicare la quantità di scorie che vengono prodotte per effetto del funzionamento del reattore nucleare. Professor Sumini, oramai siamo arrivati nella parte finale della trasmissione, quindi come ultima domanda, prima di affacciarci verso la fine, le volevo chiedere di commentare una dichiarazione uscita qualche giorno fa, per la precisione il 2 novembre 2009, da parte dell'Autorità di Sicurezza Nucleare britannica, dell'Autorità di Sicurezza Nucleare francese e dell'Autorità di Sicurezza Nucleare finlandese. Si analizzavano i cosiddetti EPR, quindi i reattori di cui abbiamo parlato nella parte finale, e il documento finale diceva fondamentalmente che gli EPR, per via del loro strutturale sistema informatico, quindi del fatto che il sistema informatico non era calibrato troppo per gestire gli incidenti, era un sistema informatico che andava assolutamente rivisto. Lei che cosa ne pensa da questo punto di vista? Quindi cosa ne pensa di questa dichiarazione? L'attenzione che viene sollevata da questo comunicato è assolutamente ragionevole ed è collegata sostanzialmente alla gestione informatizzata dei segnali e dei sistemi, che deve essere fatta assicurando un'indispensabile ridondanza e indipendenza dei vari sistemi, cioè i sistemi che gestiscono le condizioni di funzionamento normale devono essere separati fisicamente separati dai sistemi che devono intervenire a segnalare e gestire le condizioni di indipendenza. Quindi il sistema di sicurezza, per la sicurezza dell'impianto, deve avere una sua indipendenza strutturale dai sistemi che invece vengono utilizzati per la gestione dell'impianto durante l'esercizio normale. e semplicemente questa dichiarazione segnala la necessità che anche nel momento in cui si ipotizza una gestione fortemente informatizzata di tali sistemi, questa separazione venga mantenuta in essere in questi termini, quindi in termini di una rigorosa possibilità di indipendenza, garanzia di indipendenza fra i due sistemi di sicurezza e gestione. Professor Sumini, intanto la ringrazio per aver partecipato a Caccia Fotone, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, e un augurio di buona scienza a tutti. Grazie professor Sumini.